La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Mio nonno allora ha preso il giornale e disse: sul giornale c'è scritto che il 23 marzo 1944, ovvero sia l'altro ieri, c'è stato un attacco con lancio di bomba contro una colonna di polizia tedesca in transito per via Rasella. In seguito all'attentato, 32 elementi della polizia tedesca sono morti e molti altri feriti. Il comando tedesco ha perciò ordinato che per ogni soldato tedesco morto, 10 comunisti badogliani saranno fucilati. Punto. Questo ordine è già stato eseguito. Questo era un estratto di Radio Clandestina di Ascanio Celestini. Lui è il protagonista di questa puntata. Celestini rilascia poche interviste, preferisce scrivere, recitare e cantare. Alcuni lo definiscono un comico. Sicuramente è uno che può farti ridere, ma è anche uno che sa farti piangere. La sua vita inizia nel 72 a Roma, in una borgata. Anna che vorrebbe andar via. Marco grosse scarpe, poca carne. Marco cuore in allarme. Con sua madre una sorella, poca vita. Ma la mia famiglia è una famiglia piuttosto normale, nel senso che i miei nonni erano, mio nonno paterno era romano, abitava, cioè era di Trastevere, al tempo in cui Trastevere era, diciamo, fuori dal centro, insomma, non era un quartiere ricercato turistico, ovviamente, perché all'inizio del Novecento era un carrettiere. Sua moglie era una contadina emigrata dal nord, da Varese, insomma, dalla provincia di Varese. Mia nonna materna invece veniva dal nord del Lazio, e anche loro era una famiglia contadina, e suo marito era un boscaiolo e veniva dal Veneto, dal Friuli, quella zona lì, insomma la sua famiglia era, aveva quell'origine, per cui tutta gente che, tranne mio nonno che viveva già a Roma, erano famiglie di persone venute da fuori, come tante altre che sono tante altre famiglie romane che hanno storie lontane da questa città. Mio padre era un piccolo artigiano, cioè aveva una piccola bottega in un garage e faceva restauratore di mobili. Mia madre era una parrucchiera che ha lavorato fin quando hanno finito di pagare il mutuo di casa. A quel punto ho smesso di lavorare e sono nato io. Lei è figlio unico? No, c'è mia sorella che è più grande di 9 anni. Senta, lei è cresciuto quindi in quale quartiere di Roma? La borgata che si chiama Morena. Ed è la borgata dove sta ancora vivendo, giusto? Sì, sì, da 2 giorni stiamo in una casa nuova che sta più o meno a 100 metri dalla casa dove sono nato. Ecco, perché ha deciso di continuare a vivere nella borgata Morena? Ma, prima cosa perché mia moglie di questa stessa borgata e sua madre vive ancora qui, e anche mia madre vive in questa borgata, e quindi è, diciamo, una questione di mutuo soccorso, insomma, di soccorso reciproco rispetto sia nei loro confronti che nei confronti nostri, dei nostri bambini. E sia perché è difficile, insomma, vivere in una città come Roma per tanti motivi, sia per il tipo di lavoro che faccio, che è un lavoro che mi porta spesso fuori in tournée, quindi vivere al centro di una città significa, soprattutto una città grande come Roma, significa dover attraversare l'intera città per uscire, quindi metà del viaggio è semplicemente, consiste, insomma, nel raggiungere l'autostrada. E poi perché è una questione proprio economica, nel senso, vivere in borgata, noi non avremmo potuto acquistare una casa al centro di Roma, insomma, anche perché poi sia io che mia moglie lavoriamo per la compagnia teatrale, per cui entrambi abbiamo bisogno di spazio dove costruire scenografie, tenere un archivio, insomma, tutta l'amministrazione, insomma, quello che è lo spazio vitale di un impiegato per noi si raddoppia, perché insomma nella nostra casa c'è l'ufficio, la bottega, il magazzino. E i bambini? Quanti bambini ha? Bambini ce n'ho uno in attesa di una seconda. Senta, com'è il quartiere in cui vive? Cioè, la gente, per esempio, la ferma per strada, le racconta che c'è qualcuno che dice: guarda, Ascanio, che devi fare uno spettacolo su questo, su quest'altro. Cioè, c'è dibattito attorno a lei? Beh, diciamo che il quartiere nel quale vivo, essendo il quartiere nel quale sono nato, le persone che vivono in questo quartiere non è che si meravigliano di incontrarmi in strada, nel senso che ci vivo da sempre, mi incontrano da 40-41 anni, per cui è abbastanza normale. C'è diciamo nei bar piuttosto che dal fruttivendolo un dibattito politico al quale io partecipo come un po' tutte le altre persone che vivono in questo posto. Non c'è una relazione diversa, o almeno a me non sembra che ci sia. Ascanio Celestini è il ragazzo di sempre, fa la fila dal verduraio, siede al bar assieme ai suoi vecchi compagni di scuola, ha sposato la ragazza che abitava nel palazzo in cui è cresciuto. La prima volta a cura di Cristina Carpinelli. C'era una volta un piccolo paese, e piccolo paese c'erano Tony Corrotto e Tony Mafioso, che erano rispettivamente i segretari del partito dei corrotti e del partito dei mafiosi. E piccolo paese c'era anche il piccolo partito dell'opposizione, che chiamandosi così per l'appunto stava all'opposizione. Un bel giorno Tony Corrotto e Tony Mafioso decisero di fondare un unico partito, mettendo insieme le loro forze, e fondarono il grande partito del piccolo popolo. Ora il partito si era fuso, era diventato uno, ma loro erano sempre in due. Chi dei due avrebbe dovuto comandare nel nuovo partito? Ovviamente Tony Mafioso era più importante e andò a fare il presidente del consiglio, mentre Tony Corrotto, che non comandava un cazzo, andò a fare il presidente della Camera. Dall'altra parte all'opposizione rimase il partito dell'opposizione, che passava il tempo a giocare a bridge, sorseggiare whisky nel salottino privato del caffè della mafia in via della corruzione. Tony Mafioso iniziò una lunga stagione di grandi riforme. La prima grande riforma di Tony Mafioso fu una riforma importante, aspettata e richiesta da tutti, ovvero sia la depenalizzazione della corruzione. Cioè, chi rubava, insomma, non era più realmente un ladro, anche se era un ladro non sarebbe finito in galera. Ovviamente l'opposizione si oppose, era contraria. Non tanto perché fosse contraria alla corruzione, che è uno strumento utile, quanto quella parola lì, ladro, era una parola poco elegante, era una brutta parola che non si può pronunciare mentre giochi a bridge e sorseggi whisky. Nel 2006, Ascanio Celestini, già noto a chi frequenta il teatro, arriva in televisione, ospite della trasmissione di Serena Dandini Parla con me. Il suo debutto televisivo è un successo. In 5 minuti di monologo, Ascanio Celestini racconta l'Italia politica e l'Italia della gente comune. Mangio la zuppa del supermercato. Cioè, vabbè, io sono Robertino Casoria e sono un bambino di 9 anni, però pure io mi mangio la zuppa del supermercato. La mangiamo a scuola, la mangiamo a mensa. La zuppa del supermercato, la mangiano i compagni, la mangia la maestra, le suore, i bidelli, il direttore, però soprattutto noi mangiamo la zuppa del supermercato in famiglia, a casa nostra, a pranzo e a cena ci mangiamo la zuppa del supermercato. È buona la zuppa del supermercato perché nella zuppa del supermercato ci stanno tutti gli ingredienti, proprio tutti ci stanno, dinne uno che ci sta, stracchino, banana, cioccolata, fragola, peperone, tutti ci stanno, tutti, però sono ingredienti di supermercato che sanno di niente. E quindi quando tanti ingredienti sanno di niente, li puoi infilare nella stessa medesima zuppa che diciamo vanno d'accordo, insomma, non si danno fastidio. Noi ci mangiamo la zuppa del supermercato, che sa di niente, e non ci abbiamo niente da dire. Così allora mia madre accende la televisione e lei, che non c'ha niente da dire, proprio niente, comincia a parlare e dice: ma perché non ce la ricompriamo nuova sta televisione? Dice mia madre. Celestini è l'uomo di teatro, l'intellettuale che porta la storia e la strada sul palco, partendo dall'ascolto della gente. Diciamo che c'è una questione proprio di attenzione alla questione territoriale. Da una parte c'è una discussione che è legata al privato, una stupidaggine del tipo: c'è chi non vuole vengono fatti marciapiedi in borgata, perché con marciapiedi diventa più difficoltoso parcheggiare, per esempio. C'è una stupidaggine, però c'è chi c'ha questa priorità, insomma, chi esce da casa esclusivamente con l'automobile e non c'ha nessun bisogno, insomma, un marciapiede, né tantomeno immagina la possibilità dell'esistenza di una pista ciclabile. C'è chi invece c'ha il problema inverso. Ed è per esempio rispetto alla speculazione edilizia nelle zone della periferia delle grandi città, e Roma è tra le grandi città che stanno devastando in questi ultimi anni. C'è un continuo raschiamento dei terreni che in passato erano terreni agricoli o comunque non edificati, che si trasformano da un giorno all'altro in terreni edificabili o che comunque vengono utilizzati per una speculazione edilizia, diciamo, estremamente evidente, e per cui molti si sentono derubati dei propri spazi vitali. Quella di Ascanio Celestini è una prima volta che non arriva all'improvviso. Il ragazzo recita, studia, ascolta, poi negli anni successivi scrive, interpreta e canta. Ma in realtà io, come tanti altri, anch'io inizierò lentamente, nel senso che prima ho fatto dei spettacoli come saggi di laboratorio, poi abbiamo fatto delle cose con un collettivo, poi sono andato a lavorare con una compagnia in Toscana. Io credo di aver incominciato seriamente a fare teatro solo nel 98, quando ho fatto due spettacoli, uno nel quale ero da solo, che si chiamava Baccalà, che erano racconti da tradizione orale sostanzialmente, e l'altro era Cicoria, insieme ad un attore pugliese che vive in Toscana, che si chiama Gaetano Ventriglia, ed era uno spettacolo invece che abbiamo scritto a partire da soprattutto da alcuni film di Pier Paolo Pasolini, alcuni appunti di diario. Questo è stato per me l'inizio vero e proprio, anche se prima avevo fatto altre cose, ma che erano soprattutto, diciamo, per me una maniera di fare scuola e teatro. Ecco, la cosa che le volevo chiedere prima, appunto, che poi avevo semplicemente anticipato, è questo concetto della solitudine, no? Che viene sempre spesso fuori, e a volte ho notato che è collegato anche al tema della violenza in qualche modo. Due cose che si trovano spesso anche proprio nella vita quotidiana. Lei le racconta, forse è per questo che la gente la segue e la capisce così. Ma la relazione tra ciò che è pubblico e ciò che è privato è un po' il cardine della nostra vita in relazione, nel senso che da un certo punto di vista ci sentiamo più liberi quando siamo soli, e quindi quando non abbiamo problemi col vicino di casa che sa in quali orari entriamo, usciamo da casa, come ci comportiamo, come viviamo, con chi, in quale maniera. E dall'altra parte però abbiamo bisogno di una relazione con gli altri, perché nella solitudine non, e soprattutto nel privato, non troviamo tutte le risposte ai nostri bisogni. E nel passato le classi, soprattutto subalterne, vivevano soprattutto una dimensione pubblica, perché non avevano un privato sufficientemente isolato, e quantomeno vivevano in famiglie molto allargate, dove anche soltanto un compleanno, un matrimonio, una colazione di Pasqua coinvolgeva almeno 50 persone. pian piano che è aumentato il benessere, questo privato si è allargato, quindi a questa comunità forzata, insomma, creata in maniera forzata, si è sostituita una piccolissima comunità, che è quella familiare, microfamiliare, due figli, un figlio, nessun figlio, una persona sola che non ha relazioni con gli altri. E entrambe le condizioni sono condizioni difficili, nel senso che non è facile vivere in relazione con gli altri, non è possibile vivere da soli. Però diciamo che oggi, a distanza di tanti anni, dopo aver subito questo cambiamento, diciamo, questa riduzione del pubblico ad un privato, privatissimo, piccolissimo, probabilmente ci rendiamo conto che entrambe le condizioni, nonostante siano difficili, devono comunque convivere. La violenza aumenta nella solitudine quando in questa solitudine siamo forti, cioè quando abbiamo la possibilità di rispondere ai nostri bisogni sempre attraverso, diciamo, le risorse nostre, insomma, le risorse del singolo, e quindi sostanzialmente attraverso il denaro. Cioè, col denaro io acquisto una casa grande, col denaro acquisto una macchina grande, veloce, col denaro io acquisto sesso, sostanze stupefacenti, ma anche semplicemente alcol. Col denaro compro sostanzialmente tutto. Poi che io abbia realmente bisogno di queste cose, di questi oggetti, e quindi che io abbia realmente bisogno di essere un cliente, questo è difficile dirlo, e probabilmente non è comunque una condizione soddisfacente. E diciamo che se dovessimo misurare la felicità di un individuo attraverso la sua possibilità di rimanere isolato, forse lì non troveremmo una felicità. Non è detto, insomma, ovviamente. C'è una fiaba di tradizione orale che è la storia del principe, il principe scontento, che a un certo punto un medico, insomma, gli dice: per tornare ad essere contento devi indossare la camicia di un uomo contento. E quindi tutti i suoi servi vanno in giro per il mondo a cercare un uomo contento a cui chiedere la camicia, e alla fine, quando finalmente trovano un uomo contento, l'uomo contento è senza camicia. Ovviamente questa è poi una banalità, nel senso che non è detto che, cioè, non è il povero non è per forza più felice del ricco, ovviamente. Però forse in questa immagine così naif, così ingenua della letteratura popolare c'è probabilmente qualcosa, se non di vero, quantomeno di concreto. Per le vacanze estive, a volte un temporale, non ci facevo uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. La prima volta termina qua. Io vi ringrazio per averci seguito. L'indirizzo per scriverci è laprimavolta@radio24.it. La trasmissione è in podcast, quindi potete riascoltarla. C'è anche un blog, trovate tutto andando a cercare la pagina della Prima Volta sul sito di Radio 24. Buona domenica a tutti, da Cristina Carpinelli.